è? Chi è? Chi è? Boh, se non parli col Roger Bicchi non capisco chi sei. Il segnale è forte, ma... CQ10. Niente radio. Solo l'importante. Oh, signor. Sì, come non stiamo creando su grua e col rollo, no hay posibilidad de darle, cargarle al barco sobre la popa y mover el barco moviéndolo. Solo l'importante, niente radio.